Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, ultima puntata prima di Natale di Focus Economia. Vi daremo aggiornamenti riguardo alla scossa di terremoto, la nostra breaking news l'avete sentita, l'epicentro dovrebbe essere Parma, Traversetolo per la precisione, alcuni telefoni isolati, per ora non si segnala per fortuna altro e chiaramente speriamo che la situazione resti così, telefoni isolati in alcune zone del Parmense, scossa che si è udita anche in Veneto e in Lombardia. Al di là di questa nota di aggiornamento, veniamo alla giornata economico-finanziaria. Oggi i mercati, prima della pausa natalizia, domani infatti saranno chiuse, sarà chiusa la borsa di Milano e anche altre borse europee, vanno a guadagnare qualcosa, lo 0,6% S&P MIB, lo 0,3% MIBTEL, meglio fa Francoforte più 0,90% e Parigi più 0,5, Londra più 0,94%, ancora l'America più 0,2 sul Dow Jones e per quello che riguarda il Nasdaq più 0,4. Poco mossi i cambi, nel senso che l'euro si mantiene a 1,39 nei confronti del dollaro e a 94 pence, 95 pence nei confronti della sterlina britannica. I titoli: il peggiore in questo momento è Prysmian, meno 5,2, Atlantia meno 2,7 come A2A, Bulgari perde il 2,3, Fiat l'1,5, Buzzi Unicem 1,2 come Snam Rete Gas. Tra chi guadagna segnaliamo Italcementi più 5,20, Banca Popolare di Milano più 3,4, Seat Pagine Gialle più 2,4 come Finmeccanica, l'1,8 lo guadagna Geox, l'1,6 sia Enel che Intesa San Paolo, ma anche il Monte dei Paschi. Infine Mondadori 1,5% di rialzo, Parmalat e Saipem l'1,2%, Banco Popolare e Telecom l'1%. In assoluto tra i migliori e peggiori Eurofly 28% di rialzo, sospesa anche Bastogi, anch'esse da quello che vediamo sospese 25%, Stefanel molto bene e poi sul fronte opposto IT Holding e Lavorwash. No, probabilmente Bastogi dovrebbero essere riammesse in contrattazione, a giudicare da come si muove il terminale. Saremo più precisi durante l'aggiornamento dai mercati finanziari e il commento di borsa, quindi alle 17.35. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo tiene banco l'apertura della CGIL, la proposta di una settimana corta per le imprese in difficoltà e per reggere quello che sarà una contrazione di posti di lavoro che tutti si attendono nel 2009. Ieri ne abbiamo parlato con tra virgolette, con da un lato il ministro Sacconi, ma dall'altro anche con voi, perché molti sono gli MS che sono arrivati. Ricordo che il ministro Sacconi a questi microfoni ha detto in sostanza: attenzione, noi abbiamo già un modello, non dobbiamo copiare nulla dalla Germania, da lì infatti arriva la proposta. E vedo alcuni SMS sull'aggiornamento del terremoto, un attimo di pazienza, appena avremo nuove informazioni ve le daremo. Ma dicevo, oltre ai vostri sms, la posizione del ministro Sacconi era chiara: attenzione, noi abbiamo già la cassa integrazione guadagni, per cui da questo punto di vista non dobbiamo imparare nulla da Germania, c'è già una partecipazione dello Stato in quello che è l'eventuale fuoriuscita di posti di lavoro, soprattutto quando si tratta di cassa integrazione, quindi non licenziamenti ma riduzione dell'orario di lavoro, turnazione. L'apertura della CGIL, sentiremo altri punti di vista oggi. Per quello che riguarda i dati congiunturali, andiamo rapidamente al punto con le notizie principali di questa giornata economico-finanziaria. Allora, Allora, per quello che riguarda i mercati, continua a calare l'Euribor a tre mesi al 3,02%, è leggermente salito il tasso a una settimana. Sempre sui mercati, questa volta petroliferi, petrolio a New York quota $40,58, quindi sempre sulla soglia dei $40. Tra l'altro oggi a Mosca ne parleremo nel corso dei mercati, nel corso della seconda parte di Focus Economia. Si è aperta poco fa in realtà la settima riunione dei paesi esportatori di gas: Iran, Libia, Algeria, Venezuela e Qatar. Trovare un approccio comune alla formazione del prezzo, la tentazione di cartello in qualche modo anche in chi produce gas è forte. Putin, sempre in tema di gas, dice: l'epoca del gas a buon mercato sta per finire. Ora, visto che il gas si è mosso sempre, si muove sempre seguendo la scia del prezzo del petrolio, non mi sembrava, senza contraddire Putin, che fino a luglio il gas costasse poco, costava 147, era 147 come il petrolio. Tra l'altro Mosca ha raggiunto anche un accordo con Astana sul prezzo delle forniture di gas kazako, ma il prezzo è top secret. Nessun problema invece per il nostro approvvigionamento. Il contenzioso tra Russia e Ucraina, infatti, detto oggi il ministro Scajola, non comporterà rischi sull'approvvigionamento in Italia. Come sono andate le fusioni e le acquisizioni nel 2008? Beh, insomma, 1.300 accordi cancellati, 911 miliardi di dollari. Praticamente il volume di quelle che in inglese si chiamano mergers and acquisitions, quindi fusioni e acquisizioni, si è attestato a 3.280 miliardi di dollari, un meno 30% rispetto al 2007. Le società hanno infatti cancellato più di 1.300 transazioni, quindi proposte, trattative in corso, per un totale di 911 miliardi di dollari. Il PIL americano, adesso vedo alcuni aggiornamenti sulla scossa di magnitudo 5.2 e vediamo se c'è il nostro Daniele Biacchessi, così interrompiamo un attimo le headlines, chiedo scusa agli ascoltatori ma dobbiamo dare gli aggiornamenti. Daniele? Sì, dunque, il direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Boschi, ha confermato poco fa che si è trattato di un terremoto 5.2 tipico della zona. Quale zona? La zona tra la provincia di Parma e quella di Reggio Emilia, e nelle prossime ore, giorni, registreremo altre scosse, ma scosse che possono avere in quelle zone non sono forti, come invece può accadere nell'Appennino meridionale. È una zona ben costruita, ha detto poco fa Boschi, nulla di catastrofico, quindi molto forte ma non distruttiva. E voglio ricordare che poco fa Ferrovie dello Stato ha comunicato che è stata interrotta temporaneamente la circolazione ferroviaria lungo le linee Bologna-Verona e Bologna-Milano. Un'interruzione che, secondo Ferrovie, è una precauzione necessaria per consentire ai tecnici di vedere cosa è accaduto e effettuare le opportune verifiche sull'integrità delle infrastrutture, soprattutto quelle di alta velocità, ecco, le nuove, quelle a Bologna-Milano. Daniele, non si segnalano comunque, bene ricordarlo, né feriti né men che meno al vittime, momento no, neanche al momento danni no. gravi. Al momento no. Naturalmente sia la protezione civile dell'Emilia Romagna che quella della Lombardia, dove si è sentita più forte la scossa, dicono che al momento non ci sono danni forti, almeno rilevabili, e soprattutto non ci sono feriti. Però insomma, Boschi anche poco fa ha ricordato che in questi frangenti è sempre meglio essere prudenti. Grazie, e ogni volta che vi sarà bisogno chiedi pure la linea. Grazie Daniele Biacchessi, noi ritorniamo con le notizie in breve. Allora, dicevo, il PIL americano confermato nel terzo trimestre meno 0,5%, e secondo la Casa Bianca il quarto trimestre sarà ancora peggio di come è andato il terzo trimestre. Andiamo avanti, in Gran Bretagna invece meno 0,6% nel terzo trimestre il PIL, è il peggior calo dal 1990, anche leggermente peggiore rispetto al primo dato, il meno 0,6%. In Italia male le vendite al dettaglio, meno 0,7% a ottobre, quindi il dato è ancora di ottobre, più 0,7 i prodotti alimentari, meno 1,6 i prodotti non alimentari. Soffrono di più i piccoli negozi, tiene la grande distribuzione, tra l'altro calano molto calzature, abbigliamento, elettrodomestici e profumeria e anche i farmaci, mentre il resto tiene, comunque tiene più della media. Ultima notizia prima di passare al tema di apertura. Da un lato parliamo dell'Italia, perché come ricordava anche Gere, cancellati oltre 40 voli ma meno code. Oggi l'ENAC ha aperto un'istruttoria, si va verso le sanzioni. Dall'altro i 100 controlli svolti e 140 milioni recuperati sono i risultati forniti oggi dall'Agenzia delle Entrate sui controlli relativi alle residenze estere fittizie, soprattutto di rappresentanti del mondo dello spettacolo, della moda e imprenditori. Sanzioni e interessi per gli anni dal 2001 al 2005, appunto, per un ammontare complessivo di 140 milioni di euro. Adesso, primo tema, 349-238-6666, come fronteggiare le difficoltà sull'occupazione, i 600.000 cassa integrati che stima la Confindustria, 1 milione secondo la CGIL, la proposta tedesca di una settimana corta in cui lo Stato integra, diciamo, il mancato guadagno di quei giorni. Allora, partiamo subito. Ieri avete sentito il ministro Sacconi su questo, che ha detto: noi abbiamo già in sostanza un modello, non abbiamo bisogno di copiare nulla della Germania, abbiamo già un modello tedesco, ossia abbiamo la cassa integrazione guadagni. Su questo vorrei sentire in primo luogo Pietro Ichino, senatore del PD, docente di diritto del lavoro, insomma, uno dei nomi più noti quando si parla di diritto del lavoro. Buonasera professor Ichino. Buonasera. Grazie anche al professor Pietro Garibaldi, che insegna economia del lavoro alla Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera anche a lei professore. Buonasera. Dovrebbe raggiungerci tra circa un quarto d'ora anche il vicepresidente di Confindustria con la delega proprio alle relazioni industriali, Alberto Bombassei. Senatore Ichino, so che lei dovrà lasciarci fra qualche minuto, quindi vorrei sentire prima il suo commento, poi quello di Garibaldi. Prego. Il mio commento è questo: noi abbiamo non solo uno, due schemi di intervento della cassa integrazione che corrispondono perfettamente all'idea di una riduzione temporanea di orario reversibile con integrazione salariale per le ore perdute. Una è la cassa integrazione ordinaria, che può essere intervenire per esempio per una riduzione a 24, a 30, a 32 ore dell'orario settimanale e integra l'80% delle ore perdute. L'altro è il contratto di solidarietà, che mentre l'intervento di cui parlavo prima ha una durata massima di un anno, il contratto di solidarietà ha una durata massima di 2 anni, però nel contratto di solidarietà la cassa integrazione interviene soltanto al 50%, quindi la perdita retributiva è più marcata. La cassa integrazione ordinaria si sa che viene usata molto largamente, comunemente, invece il contratto di solidarietà non ha avuto grande fortuna e l'abbiamo dall'84, quindi ormai sono 24 anni, non ha avuto molta fortuna perché subiva appunto la concorrenza della cassa integrazione ordinaria che dava di più. L'unico periodo in cui il contratto di solidarietà ha avuto una sorta di piccolo boom è stato nel 93, quando il ministro Gino Giugni portò l'integrazione nel contratto di solidarietà al 75%, quindi quasi all'80%, e allora a quel punto il vantaggio di poterlo avere per 2 anni invece che per un anno soltanto è stato decisivo e c'è stata una grossa espansione, ma poi si è tornati al regime attuale. Io credo che in periodo di crisi anche questo strumento debba poter essere usato, ma con un'avvertenza, e cioè che se il periodo di riduzione dell'orario e della retribuzione è lungo, diciamo per esempio i 2 anni di un contratto di solidarietà, questo può portare la parte più più forte dei dipendenti dell'azienda, quella che ha più appeal nel mercato, quindi è più libera di scegliere e può portarla ad andarsene, cioè andare verso imprese che pagano meglio, pagano di più, fanno valorizzano di più il lavoro perché fanno lavorare di più, e questo può depauperare l'azienda della parte migliore o più appetibile del suo organico. Questo è un... Ecco, ma lei come giudica, da studioso del mondo del lavoro, delle relazioni industriali, ma anche da senatore del PD, l'apertura di ieri del leader della CGIL Epifani, quello ha detto apriamo la settimana corta, perché da un lato il ministro Sacconi ci raccontava ieri, ma noi insomma la settimana corta non abbiamo bisogno di crearla, perché avendo la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ma anche i contratti di solidarietà, gli strumenti li abbiamo già, era la Germania che ha dovuto inventarsi questo strumento. Anni mi sembrava detto una cosa molto sensata, come del resto l'hanno detta Bonanni, Angeletti e Renata Polverini, cioè se c'è una situazione in cui la riduzione temporanea dell'orario risolve il problema evitando licenziamenti o sospensioni a zero ore che possono essere avere un costo sociale più elevato, ben venga. Questo non è la soluzione di qualsiasi crisi aziendale, ma è uno strumento da utilizzare e che può essere, diciamo, quello giusto in alcune situazioni. In altre invece è quando per esempio la crisi è irreversibile e bisogna ridurre il personale, è certo che il personale non verrà riassorbito, come per esempio nel caso Alitalia, lì attivare la cassa integrazione è un grave errore. Perché poi per sette anni in quel caso. Lì no, sono quattro anni di cassa integrazione più tre di cosiddetta mobilità, cioè ha ragione, sono quattro di più tre. Speciale, ma è un errore gravissimo, perché la cassa integrazione è strutturata proprio in funzione del rientro prevedibile, ragionevolmente prevedibile del lavoratore, quindi è una forma di intervento non orientata a far ritrovare un altro lavoro, a ricollocare altrove il lavoratore. Quindi se si fa per esempio, come spesso accade, uno, due anni di cassa integrazione, pur sapendo, nel caso dell'Italia addirittura quattro, pur sapendo che il lavoratore non rientrerà mai in quell'azienda, e si ritarda di uno, due o all'Italia addirittura quattro anni le iniziative di riqualificazione e riorientamento nel mercato, e questo è uno spreco enorme dal punto di vista delle finanze pubbliche, ma anche è un danno per questi lavoratori, perché si ritarda la loro ricollocazione, e non dimentichiamo che il disoccupato più a lungo sta disoccupato più vede ridursi il proprio appeal nel mercato, i disoccupati hanno maggiori difficoltà quando il tempo passa, quindi più presto si interviene più facile è l'intervento. Un'ultima domanda, professor Ichino, e poi sentiamo anche Pietro Garibaldi. Anche a me sentire il suo parere. Però chi la paga la cassa integrazione? Dunque, la cassa integrazione ordinaria è diciamo uno schema, un programma di tipo previdenziale che vede un bilancio inattivo nei periodi di congiuntura buona e in passivo talvolta pesante nei periodi di congiuntura cattiva, e lì trattandosi dell'INPS però questa è una differenza non da poco, perché nel caso tedesco l'intervento dello Stato è diretto, cioè non va a toccare il monte complessivo, se ho ben capito, cioè lo Stato dà un 60-67% di integrazione per quei giorni in cui il lavoratore non lavora nella settimana corta, ma è lo Stato che entra direttamente. Qui la cassa integrazione è fatta appunto anche dai fondi dell'INPS. Non c'è dubbio, ma diciamo diciamo, la cassa integrazione ordinaria è nata e strutturata per essere in equilibrio, quindi per avere una gestione che si autofinanzia con i contributi delle aziende. In realtà non è sempre così e soprattutto quando ci sono delle situazioni di pesante di congiuntura pesantemente negativa, il debito è coperto dallo Stato. Però in questa fase in cui è necessario dare, sostenere i redditi più bassi, dare fiducia alle famiglie per stimolare i consumi, e per questo la Comunità Europea ci autorizza a investire e anche a superare i limiti di deficit ordinari, io penso che sia una buona misura anticiclica quella di arricchire gli ammortizzatori sociali, e in particolare questo della cassa integrazione, che è un buon ammortizzatore. Mettere dentro altri soldi. Allora, professor Garibaldi, poi lei resterà con noi, il professor Ichino ci deve salutare, ma un primo commento. Dice Ichino, in sostanza, attenzione, la cassa integrazione, se funziona come strumento ponte che accompagna lungo la parte più difficile della crisi, quando altrimenti l'impresa dovrebbe o chiudere o ridurre i dipendenti, tiene in vita il dipendente nel rapporto anche lavorativo, ha un senso. Se la si usa come per l'Alitalia, cioè quando sai già che uno non verrà mai riassunto, non ha nessun senso. E comunque è uno strumento che ci permette, diciamo, di non aver bisogno, come la Germania, di inventarsi una nuova formula. Un primo commento su questo. E questa è la cosa più importante, nel senso, se gli interventi di cui si parla in questi giorni, perché secondo me vi è un po' di confusione, perché se si tratta unicamente di utilizzare e di mobilizzare gli strumenti che già esistono nel nostro ordinamento, stiamo dicendo delle grosse ovvietà. Se tuttavia si parla di emendamenti, oggi alcuni esponenti della maggioranza parlano, alcuni senatori, di emendamenti alla legislazione in materia anche di cassa integrazione ordinaria per rimodulare le settimane, allora bisogna capire se è un intervento che richiede risorse o non richiede risorse, perché questo è il punto fondamentale. Se soltanto si tratta di ritocchi normativi che non incidono sulle risorse pubbliche, è ovvio che siamo tutti d'accordo che l'integrazione ordinaria con uno strumento assicurativo, come diceva il professor Ichino, deve ovviamente continuare a funzionare. Se tuttavia si tratta di investire risorse aggiuntive, bisogna parlare di priorità in quel caso. Quindi secondo me in questa fase del dibattito vi è un po' di confusione, e se bisogna scegliere le priorità non è ovvio che si debba dare a quei lavoratori che già oggi purtroppo in questa fase del lavoro sono da considerarsi fortunati, perché sappiamo benissimo che ci sono un milione di lavoratori che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria, perché sono le piccole imprese, vi sono tutti i lavoratori precari. Quindi questo mi sembra il nodo vero che si deve... Quindi capire anche se estendere, se ho ben capito, professor Garibaldi, cioè non si possono lasciare fuori, cioè immaginare che le piccole imprese non sentano la crisi, anche perché delle volte la sentono più delle medie e delle grandi. Quindi estendere lo strumento, oppure se invece si sta pensando semplicemente di utilizzare lo strumento esistente. Quindi di risorse, se vi sono risorse nuove bisogna fermarsi un attimo e dire a chi vanno. Questa mi sembra la cosa più importante in questa fase del dibattito. Sì, tra l'altro ieri proprio con il ministro Sacconi discutevamo anche del fatto che oltre alle piccole imprese che non hanno diritto alla cassa integrazione c'è un decreto, ma su questo vedremo, ne parlava anche il vostro collega Tiraboschi, un decreto che dovrebbe passare in cui ci sono delle misure anche per i lavoratori a tempo determinato e in piccola parte anche per i contratti a progetto. Comunque io ringrazio il senatore Pietro Ichino. ...17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ascoltato il commento di Pietro Ichino, che dice: va bene, bisogna capire per cosa la si utilizza, se la si utilizza solo per come vero ponte, come traghetto per passare oltre la crisi, è un ottimo strumento la cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, così come i contratti di solidarietà, sbagliato utilizzarla come per l'Alitalia, per dipendenti che non saranno più riassunti. In questo modo si ritarda anche l'ingresso e la riqualificazione nel mondo del lavoro. Pietro Garibaldi stava concludendo il suo pensiero, ossia bisogna capire se vi saranno nuove risorse oppure si parla delle risorse già esistenti, per cui insomma le piccole imprese non sono non sono incluse, e comunque non sono inclusi anche altri soggetti al di là dei lavoratori dipendenti. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche il vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali, Alberto Bombassei. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti. Allora, vorrei sentire anche il suo punto di vista. Ieri il ministro Sacconi ha detto: beh, noi non abbiamo bisogno di nessuna settimana corta come in Germania, perché già abbiamo la cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i contratti di solidarietà. L'apertura sulla settimana corta in generale, sulla solidarietà del leader della CGIL Epifani oggi su tutti i giornali. Vorrei capire le vostre preoccupazioni. Il fatto che la cassa integrazione non riguardi tutto il mondo delle imprese, per esempio? No, io credo che la cassa integrazione che usiamo nel nostro paese ci è invidiata da tutti gli altri paesi europei, perché è una forma di tutela dei lavoratori molto, molto efficiente e molto efficace. Quindi credo che quando il cancelliere tedesco ha fatto questa proposta, tutto sommato sia un qualche cosa che è molto simile alla nostra cassa integrazione. Il nostro giudizio tiepido, peraltro, è proprio perché può essere usata la settimana corta soltanto per un passaggio di un periodo di difficoltà, non certo come misura anticrisi in maniera strutturale. Abbiamo già queste misure, misure che oltretutto funzionano e funzionano bene, e quindi credo che noi dovremmo prima usare quelle e poi fare eventualmente delle misure o avere delle misure straordinarie soltanto in casi eccezionali. Professor Garibaldi, cosa si potrebbe pensare per quelle imprese, il milione, le piccole imprese soprattutto, ma anche per quei contratti che non rientrano di diritto o di rigore dentro la cassa integrazione ordinaria e straordinaria? Di estendere un sussidio unico. La sentiamo molto poco, si può alzare la voce. Sì, ecco, grazie. Meglio? Sì, adesso sì, grazie. Il concetto del sussidio unico di disoccupazione va esattamente nella direzione di avere un mercato del lavoro in cui tutti i lavoratori hanno accesso a istituti simili. Quindi vuol dire estendere il principio assicurativo del sussidio anche in maniera più importante ai lavoratori temporanea e ad altri lavoratori che oggi sono poco coperti. Quindi questo è un intervento che in queste condizioni sarebbe molto importante, anche tenendo anche conto che vi sono poi molti lavoratori che sono tecnicamente dei lavoratori indipendenti, lavoratori a progetto, ma che hanno delle caratteristiche di parasubordinato. Vi sono dei modi tecnici per individuare quei lavoratori che sono sia a progetto ma di fatto hanno un unico lavoro che quasi le dipendenze. Anche questi lavoratori dovrebbero poter accedere a strumenti di sussidio. Queste sono scelte, richiedono risorse nel breve periodo, ma se la crisi è molto grossa e deve essere anche un momento per fare importanti riforme. Non dobbiamo far passare questa crisi senza investendo risorse ma non facendo riforme. Questo è molto importante. Presidente Bombassei, è d'accordo in primo luogo, ma in secondo luogo a che riforme lei pensa? Perché lei diceva giudizio tiepido, cioè non illudiamoci che con un po' di cassa integrazione in più si possa, diciamo, rispondere a una crisi che voi come Confindustria avete stimato produrrà 600.000 cassa integrati solo per quelli che possono, diciamo, essere cassa integrati nel 2009. Dicevo, che misure, e riprendo anche l'invito del professor Garibaldi, prego. Teniamo presente che in questi ultimi anni abbiamo creato più di 3 milioni di posti di lavoro nuovi, certo. Quindi le eventuali 600.000 perdite di posti di lavoro non va vista come una tragedia nazionale, pur essendo una situazione di estrema gravità. Noi abbiamo già detto come Confindustria che aspiriamo affinché alcune categorie che oggi hanno solo delle parziali coperture abbiano delle coperture più ampie. Però non bisogna neanche fare né del terrorismo mediatico né delle informazioni che mettano ulteriore pessimismo, che contribuiscono ad aggravare la situazione. C'è una dichiarazione, un'agenzia oggi della signora Camusso che continua a dire che la copertura dovrebbe essere soltanto avere una copertura della cassa integrazione fino a gennaio. Questo credo non corrisponda a verità e quindi si creano delle aspettative negative assolutamente di pessimismo gratuito. Quindi credo che dobbiamo dare invece delle informazioni realistiche. Sappiamo benissimo che le coperture ci sono, non sono all'infinito, ma dovremmo, semmai dovrebbe essere l'INPS a dire quali sono le coperture e non certo la CGIL. Quindi questo è quello che dovremmo dare. E poi invece avere più fondi per avere delle coperture per quelle categorie come i contratti a termine o come i lavori interinali, che possono in qualche modo aiutare a superare questo periodo. Però devono essere delle misure sempre transitorie non strutturali. E per quello che riguarda il resto del sistema produttivo, si è detto sbloccati i fondi della pubblica, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, sono 60 miliardi, 50-60 miliardi che la pubblica amministrazione deve al mondo delle imprese, magari come sotto forma di credito d'imposta. E poi, se ho ben capito, chiedete anche che vengano finanziati i lavori, grandi opere, i lavori comunque infrastrutturali già in cantiere, già diciamo in atto, in corso. Sì, sicuramente tutta una serie di azioni che possono attenuare questa diminuzione dei consumi che sono sotto gli occhi di tutti, a parte i dati poi in controtendenza di questi giorni natalizi, che fortunatamente sono un po' meglio delle aspettative. Però credo che una serie di misure che potrebbero essere prese, come quella dei lavori pubblici, che possono essere in qualche modo speditamente fatti partire, credo che sicuramente contribuiscono a ridurre il più possibile la riduzione dei posti di lavoro. Allora, grazie anche al vicepresidente di Confindustria con delega relazioni industriali Alberto Bombassei. Buon Natale anche a lei, presidente Bombassei, e buon anno se non... E ci sentiremo prima. Io dal professor Garibaldi invece vorrei capire, quando lei diceva ma non sprechiamo un'occasione, le crisi, l'abbiamo detto più volte, sono anche dei momenti in cui uno riflette, rinasce, si scoprono talenti, insomma, la crisi non è solo negativa, certo il primo effetto è negativo, ma dalle crisi si può uscire anche in maniera più forte. Lei a che cosa pensava, professor Garibaldi, quando ha detto riformiamo anche gli strumenti? Prego. Deve essere vero sia per le imprese che quindi nel settore privato ovviamente che la recessione è un momento di ristrutturazione. Per la politica economica, io penso una politica economica che debba andare a, sappiamo bene che in Italia vi è un problema di inadeguati sussidi di disoccupazione per certe categorie di lavoratori, questa è un'opportunità. Se invece le risorse aggiuntive le destiniamo esclusivamente a quei lavoratori che già oggi sono coperti, in particolare quelli della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, non risolviamo questo problema. Quindi quello che io richiedo è grande attenzione, perché abbiamo un problema, tutti è riconosciuto come un problema strutturale, quella della copertura inadeguata per una parte dei lavoratori. Se dobbiamo intervenire, interveniamo in quella direzione. Molti ci hanno chiesto ma che differenza c'è tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria, detta brutalmente, magari poi mi riprende Garibaldi, ma insomma quella ordinaria è attivabile a fronte di situazioni generate non all'interno dell'impresa, ma come il classico caso di una crisi di mercato, come anche in questi momenti, cioè non si riesce a vendere non perché l'impresa abbia un problema suo di sostenibilità, ma perché c'è una crisi di mercato complessiva. Quella straordinaria invece è disposta quando c'è una crisi aziendale vera e propria, c'è una procedura di fallimento, liquidazione coatta, ristrutturazione, riorganizzazione, ha dei vincoli più stretti. Ho detto bene, Garibaldi? Sì, è abbastanza vero, e in particolare che quella ordinaria è in qualche modo assicurativa, quindi è finanziata via volte dai contributi dell'impresa. Quella straordinaria invece è quasi sempre per aziende completamente in crisi e con denari pubblici. Grazie, buon Natale anche a Pietro Garibaldi. Allora, la borsa, dopo aver ragionato di che tipo di cassa integrazione e come riformare anche questi strumenti, la borsa oggi, l'ultima seduta prima di Natale, alla fine chiude anche in negativo, meno 0,6, meno 0,4 rispettivamente MIB dell'S&P MIB, meno 0,7 Parigi, meno 0,2 Francoforte, invariata America, Londra più 0,11. Ma che è successo, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore? Buonasera. Buonasera. Perché abbiamo iniziato il programma con borse di intorno al mezzo punto, ma positive. In mezz'ora? Sì, diciamo che i regali di Natale dagli Stati Uniti non sono arrivati, anzi carbone. Sul fronte macroeconomico sia i dati sulle nuove case sia soprattutto l'allarme della Casa Bianca su un PIL del quarto trimestre atteso peggiore rispetto a quello del terzo trimestre, che ha già accusato una flessione dello 0,5%, ha orientato in negativo le borse e ha orientato l'umore dei risparmiatori, tant'è vero che, come tu ricordavi, proprio nell'ultima mezz'ora, nell'ultima ora di contrattazione, tanto Wall Street quanto le borse europee hanno azzerato i guadagni che avevano registrato fino a quel momento, finendo addirittura in negativo, fatta eccezione invece per Londra, che è riuscita a strappare un risicato più 0,16%. Ancora sui titoli, quindi insomma notizie americane, devo dire, ma hanno reagito un po' tardi le borse, le notizie sul PIL e sulle case sono presenti dal primo pomeriggio. Comunque andiamo avanti, questa mattina brutta la chiusura di Hong Kong, meno 2,7, positiva invece Tokyo più 1,6%. Dicevo dei titoli, pesante oggi Prysmian meno 4,6, molto bene Italcementi anche se un po' ritracciato più 4%, Finmeccanica più 2,4. Partiamo dai più piccoli però una volta tanto, ma Bastoggi e Eurofly, che è successo? Perché vedo più 28 e più 25%. Parlando entrambi di aziende in fase di ristrutturazione, certo. In modo particolare per quanto riguarda Eurofly c'è un aumento di capitale in corso, proprio oggi la società ha comunicato quelli che sono stati i risultati della sottoscrizione da parte degli azionisti e dell'aumento di capitale, e ha comunicato che poi nella settimana 12 al 16 gennaio verranno offerti i diritti inoptati. È chiaro che in questa situazione, con un prezzo dell'aumento di capitale a 0,10 euro per azione, le mosse, le manovre di chi cede azioni per andarsi a comprare invece i diritti ad un prezzo più basso sono consistenti e finiscono per pesare notevolmente sul titolo. Ricordiamo ieri Eurofly aveva perso circa il 70%, oggi ha guadagnato il 28%. Un altro movimento consistente da segnalare su IT Holding, questa volta in negativo per rimanere alle società con una minore capitalizzazione rispetto a quelle dell'SP MIB, e IT Holding ha perso quasi il 17%. Dopo la richiesta da parte della società di rinviare il pagamento di una rata di debito con Intesa San Paolo, una rata di un debito che scadeva il 22 di dicembre, cioè ieri, è stata chiesta un'ulteriore proroga e questo, diciamo così, non è piaciuto molto al mercato. Andiamo avanti con i titoli, vediamo quelli però a maggiore capitalizzazione. Italcementi più 4%, bene tutto il settore devo dire oggi, a livello anche europeo. Poi abbiamo visto in evidenza Finmeccanica più 2,4 e un gruppo di bancari, la Banca Popolare di Milano più 2,3, il Monte dei Paschi più 1,8, ma anche il Banco Popolare più 0,90. Devo dire che andavano meglio prima di questa frenata in chiusura anche Intesa San Paolo e Unicredito, adesso Intesa chiuso invariata, Unicredito meno 0,7, Unipol più 0,6%. Allora, i Italcementi, Finmeccanica e i bancari. Per quanto riguarda i Italcementi, una buona performance fin un po' per tutta la seduta, anzi la contrazione che tu ricordavi nel finale ha un po' limitato i guadagni di questo titolo, che aveva raggiunto un massimo a 9,24 quest'oggi per chiudere poi a 9,11 euro. Certamente si tratta di ricoperture del carattere tecnico dopo che il titolo ieri aveva perso quasi il 5%. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, pesano invece in positivo le valutazioni di oggi di Goldman Sachs, che ha inserito il titolo tra i propri preferiti, ricordando come in particolare una notizia positiva potrebbe arrivare per il gruppo, naturalmente, dagli Stati Uniti, dove il governo degli Stati Uniti, la nuova amministrazione, potrebbe chiedere al Congresso di inserire nuove risorse in bilancio per la difesa. Di questo beneficerebbe DRS, la società appena acquisita da Finmeccanica, e quindi potrebbe essere una spinta positiva per i titoli della controllata, Toyota e a pioggia su Finmeccanica stessa. Per quanto riguarda i finanziari, tu ricordavi la buona performance di Banca Popolare di Milano, che proprio quest'oggi, con l'adesione del Banco di Desio all'offerta pubblica d'acquisto su Anima SGR, ha così raggiunto l'obiettivo rilevare il 70% di Anima. Ricordiamo che la Popolare di Milano ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto sulla società di gestione del risparmio, appunto Anima, già controllata, con l'obiettivo di toglierla dal listino. Il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo e detenga più del 70% del capitale è certamente positivo, vorrà dire che sarà un minore sborso, non è costretta poi ad alzare l'offerta, e vedremo sì. Poi come procederà il resto dell'OPA. Un'ultima domanda su Prysmian, meno 4,6% e A2A meno 3,91%. Oggi non è stata una buona Devo dire, aggiungo anche energetici con Eni meno 1,7%. E avevo visto in flessione anche Enel, ma forse mi sono sbagliato. No, Enel ha guadagnato l'1,2%. L'altro titolo in flessione più significativo della media è Fiat, meno 3%, Atlantia meno 2,82%. Per quanto riguarda appunto le utilities, oggi non è stata una gran giornata né per A2A né per Snam Rete Gas, hanno sofferto un po' tutti gli energetici, si fa eccezione per Enel. Appunto, per quanto riguarda Prysmian invece sono state significative ma anche piuttosto scontate le prese di beneficio su un titolo molto manovrato dai fondi dopo il più 7,77% di ieri. Rimanendo a Fiat, ancora una giornata negativa, meno 3%, ma le notizie che arrivano dagli Stati Uniti sul fronte dell'auto non sono certo positive, se pensiamo che General Motors sta perdendo attualmente il 17% e Ford perde il 16%. Allora, altri titoli oggi, sì, è un'altra brutta giornata oggi per i titoli auto in America, è fatto bene a ricordarlo Andrea, perché sono di nuovo mazzate, nonostante il prestito ponte che la Casa Bianca ha garantito, ponte fino a marzo, finché loro non presenteranno un piano serio di ristrutturazione aziendale, altrimenti questi soldi devono ritornarli, per cui a quel punto si chiude. Ma dicevo, altri titoli oltre a quelli citati, Autogrill meno 1,7 come appunto Snam, Tenaris meno 1,6 come l'automatica, un punto e mezzo di calo per Alleanza. L'1,4 è quello di Mediobanca, meno 1,2 per Luxottica, meno 1% Mediolanum, meno 0,90 Fastweb e meno 0,7 sia in pregiro che appunto Unicredit. Telecom perde lo 0,2, Generali lo 0,4. Do anche Terna, meno 0,1%. Poi do anche una nota di servizio. Non è che se uno, un ascoltatore, manda 40 messaggi con scritto Terna, non funziona così, funziona che diamo i titoli che hanno le maggiori variazioni. Non inondate lo spazio con i messaggi su un titolo, perché poi non permettete ad altri ascoltatori di scrivere al 349-238-6666. Chiusa questa brevissima informazione di servizio, auguro a te, Andrea Fontana, e a tutti i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore un buon Natale. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda e ultima parte di Focus Economia prima della pausa natalizia. Domani il programma di borsa è chiuso e sarà registrato, ci occuperemo di diversi settori produttivi del paese. Dicevo, dopo aver affrontato il tema della settimana corta, l'apertura della CGIL, abbiamo ascoltato anche il vicepresidente di Confindustria Bombassei, oltre che a Pietro Ichino, senatore del PD, e l'economista Garibaldi, e aver commentato la borsa, ci spostiamo adesso verso quella che molti hanno già battezzato l'OPEC del gas. L'OPEC è un cartello, di solito i cartelli in molti settori sono proibiti, sicuramente li proibisce l'Unione Europea. C'è un settore come quello energetico in cui i cartelli da sempre esistono, cioè ci si mette d'accordo sul prezzo. Abbiamo visto l'OPEC tagliare la settimana scorsa di 2.200.000 barili la produzione, nessun grosso effetto sul petrolio, anzi è sceso ulteriormente, ma insomma il cartello funziona così: i paesi produttori si mettono d'accordo su quale deve essere il prezzo e vogliono che il petrolio arrivi verso i 70-80 dollari. Tra l'altro il petrolio adesso è sceso anche sotto quota 40, a 38,32 dollari, pur essendo una cosa non bella, perché i prezzi dovrebbero essere liberi di variare. ma da sempre esiste il cartello del petrolio, adesso ci beccheremo, se abbiamo capito bene, anche il cartello del gas, ossia l'OPEC del gas, perché si è aperta oggi a Mosca, nel pieno della disputa tra Russia e Ucraina sul metano, la settima riunione dei paesi esportatori di gas. Una decina di ministri degli esteri, tra cui quelli di Iran, Libia, Algeria, Venezuela e Qatar, oltre che chiaramente Russia. Russia e Algeria da sole fanno il 70% del gas. Obiettivo dell'incontro, la discussione di un approccio comune per la formazione del prezzo del gas. E io sento odore appunto di cartello, ma chiedo conferma a Vladimir Shaposhnikov in collegamento con noi da Mosca. Buonasera Vladimir. Sì, buonasera. Infatti il nome l'OPEC del gas al Cremlino piace. Il colosso russo Gazprom ha messo subito le mani in avanti dicendo che dal momento in cui il mercato internazionale è basato sul contratto a lungo termine, di una specie di cartello non si parla. Comunque Mosca oggi ha lanciato un durissimo monito a tutti i consumatori del gas russo, ricordiamo le parole dell'ex presidente, l'attuale primo ministro Vladimir Putin, che ha dichiarato testualmente: l'epoca delle risorse energetiche, soprattutto del gas a buon mercato, sta per finire. Putin ha detto che negli ultimi anni sono aumentate moltissimo le spese per l'esplorazione geologica dei nuovi giacimenti, per la costruzione delle rispettive infrastrutture, mentre la crisi economica globale rischia di colpire il mercato internazionale del gas in maniera molto più grave rispetto al mercato del petrolio. Scusami Vladimir, ma a quale epoca si riferisce Putin? Perché è vero che il gas, seguendo da sempre i prezzi del petrolio, da agosto in poi è sceso come è sceso il petrolio, ma fino a luglio era al record anche lui come il petrolio, a $147 al barile petrolio, e il gas seguiva. Sì, infatti, però crescono le spese interne, praticamente adesso per Gazprom lavorano, se non sbaglio, 436.000 persone. Il Gazprom deve aumentare gli investimenti in maniera drammatica, per esempio oggi il consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare del 12% il programma di investimenti per il 2009 per realizzare alcuni maxi progetti, tra cui la messa in funzione del giacimento di Stockman. Dovranno essere stanziati 900 mila miliardi di rubli, ovvero 32 miliardi di dollari. Per trovare tutta questa massa di denaro, Gazprom dovrà rivolgersi sul mercato del debito internazionale. Come sappiamo, un'impresa nelle condizioni dell'attuale crisi finanziaria, un'impresa molto ardua. Inoltre sono previsti licenziamenti, congelamenti dei progetti secondari che dovrebbero permettere a Gazprom di risparmiare altri 900 milioni di dollari. No, fermo restando che, per carità, esplorare e sfruttare il gas costa, ma non è il mio sospetto, come anche nel caso dei paesi produttori di petrolio, non è che tutti questi paesi avessero fatto i conti senza l'oste, ossia senza la crisi finanziaria, e si fossero già impegnati con spese, con finanziamenti, immaginando un gas stabilmente sopra i $100. Cioè, non vorrei che noi si dovesse pagare perché i paesi arabi usano il petrolio come unica fonte o principale fonte di cassa e avevano progetti, cantieri già in corso, Venezuela pure, adesso anche la Russia. Cioè, vorrei capire quanto è dovuto ai costi veri e quanto invece è dovuto alle disastrate casse e finanze russe, che forse troppo si sono adagiate sul prezzo del gas a record. Sì, infatti, ma hai perfettamente ragione. Ricordiamo che l'export russo è costituito dell'80%, circa dell'80% delle esportazioni di materie prime, tra cui petrolio, gas, metale e così via. La Russia di Putin negli ultimi anni ha lanciato una ristrutturazione economica per ridurre il più possibile questa dipendenza dipendenza dall'export dell'energia. Il processo è stato tagliato, è stato stroncato dalla crisi finanziaria e adesso naturalmente il Cremlino deve risolvere questo problema, trovare i fondi per proseguire la realizzazione di alcuni programmi industriali e allo stesso tempo non permettere licenziamenti di massa e come conseguenza il crescente malcontento popolare. Ricordiamo che in base agli ultimi sondaggi d'opinione il 39% dei russi critica la linea politica condotta dal Cremlino. Sì, a mio avviso il Cremlino ha anche altri problemi interni e forse negli anni di vacche grasse, negli anni delle cicale, si poteva anche ristrutturare un po' la finanza pubblica russa, distribuire meglio gli introiti, avere magari meno oligarchi, miliardari in giro per il mondo e qualche e un po' di classe media in più, ma queste sono cose, diciamo, che spettano più ai commentatori internazionali che a noi. Certo, non vorremmo noi pagare per i problemi di ordine pubblico o di progetti da finanziare di paesi che, quando insomma il petrolio e il gas erano a record, non mi sembra che abbiano fatto tanta cassa. Forse si erano un po' illusi o abituati bene. Comunque, grazie Vladimir Sapochnikov, mi sembra chiara l'intenzione di questi paesi di arrivare a un OPEC del gas, anche se il termine non piace al Cremlino, ce ne faremo una ragione. Ho detto che Russia e Algeria rappresentano il 60 circa, un po' più del 60% dell'export di gas per l'Italia, chiaramente. Il resto da noi arriva dall'Olanda, dalla Norvegia, dalla Libia, mentre per quello che riguarda i produttori di gas a livello mondiale, giusto per precisione, la Russia è al primo posto in assoluto, 670 miliardi di metri cubi, segue l'America con 520, il Canada con 180, la Gran Bretagna con 100 e poi l'Algeria con 95 miliardi, la Norvegia con 85 e via a seguire Indonesia 82 come l'Iran, Olanda 74 miliardi adesso di metri cubi di gas. Ultima parte di Focus Economia. Allora, mentre continua l'elenco delle imprese che autonomamente decidono di detassare la tredicesima, oggi è la volta dell'azienda alimentare Fratelli Carli di Imperia, detassazione della tredicesima. Questo a significare che insomma le imprese in questi casi perlomeno ci tengono molto anche al potere d'acquisto dei dipendenti. Il raffreddamento dei consumi, che si voglia dire poi nei negozi, delle spese natalizie, a ottobre c'è stato, non lo diciamo noi, lo dice l'Istat, -0,7, ma tra l'altro i consumi alimentari, le vendite di prodotti alimentari fanno un +0,7% sull'anno precedente, i consumi, i prodotti non alimentari fanno un -1,7% rispetto all'anno precedente. Particolarmente colpiti i piccoli negozi e tiene -1,7%, mentre tiene la grande distribuzione e poi elettrodomestici, calzature, abbigliamento segnano il passo, come ci racconta questa scheda. Fare la spesa è sempre di più una sorta di caccia all'offerta e all'occasione. E così, come rileva l'Istat, in un periodo in cui si presta maggiore attenzione al bilancio familiare, gli unici a sorridere sono stati gli hard discount, dove si vendono prodotti non di marca a prezzi più abbordabili. Lo scorso ottobre hanno incassato quasi il 2% in più dell'anno prima, non certo un boom, che però si confronta con il calo complessivo delle vendite dello 0,7%. Una contrazione che ha colpito tutti gli altri, compresi ipermercati e grandi magazzini, sebbene anche questa volta siano stati i piccoli negozi a soffrire di più, con una riduzione degli incassi dell'1,7% rispetto all'anno prima. Lo scorso ottobre si è risparmiato un po' su tutto, ma in particolare su scarpe e vestiti, che hanno registrato una flessione del valore delle vendite del 2,6%. Un calo che assumerebbe i contorni di un piccolo crollo, avvicinandosi al 5%, se si tenesse conto dell'aumento dei prezzi legato all'inflazione. Brutto anche il dato degli elettrodomestici, con una contrazione del 2,4%, flessione intorno al 2%, hanno poi interessato gli acquisti di medicinali e prodotti cosmetici, mentre si sono arrestati all'1,5% i cali di mobili, libri e giornali e giocattoli. Due le voci in controtendenza. Sono andate bene le vendite di computer e cellulari, in aumento dell'1,7%, e hanno tenuto gli alimentari, per cui si è speso lo 0,7% in più dell'ottobre 2007. Sì, anche lo 0,7% non è gran cosa, ma sicuramente alcuni settori hanno tenuto più di altri. E allora la Confesercenti dice: attenzione, la crisi accentua in modo drammatico le difficoltà dei piccoli esercizi, come conferma l'Istat con il dato di ottobre. Nel 2008 vi saranno 52.000 imprese, il saldo tra imprese nate e imprese morte o che hanno chiuso è negativo per 52.000 imprese del commercio e del turismo. Servono politiche economiche più incisive. Chiediamo al governo anche una drastica revisione degli studi di settore per evitare migliaia di chiusure o, peggio, il ricorso all'usura. Sentiamo l'analisi di Mauro Bussoni, vice direttore della Confesercenti, intervenuto questa mattina nel programma di Deborah Rosciani, Salvadanaio. La situazione è una situazione di prudenza da parte delle famiglie per quanto riguarda gli acquisti, eccetera. Non è una situazione di depressione, cioè quindi non si è cercato di fare acquisti in modo oculato. Negli ultimi giorni si registra comunque una ripresa per quanto riguarda la tendenza dei consumi e teniamo conto che il dato per quanto riguarda le vendite dell'ettanio, in particolare nei piccoli esercizi, è un dato negativo da qualche anno a questa parte. C'è una duplice componente psicologica che prende come riferimento la tendenza e la propensione agli acquisti da parte dei consumatori: da una parte la preoccupazione di quello che sarà il domani, cioè quindi cassa integrazione, minore opportunità di lavoro, crisi finanziaria, eccetera, e dall'altra c'è anche una condizione di natura oggettiva che ha portato comunque a far perdere a molti il proprio potere d'acquisto, quindi chi ha rimesso, comunque chi ha investito proprio risparmi in borsa si è trovato ad avere minori di disponibilità. Però nel complesso, anche noi registriamo per quanto riguarda i viaggi e le vacanze una tendenza positiva, quindi è quasi pari a quella dell'anno precedente, per alcuni versi addirittura superiore. Sicuramente le imprese commerciali, favorite anche da un andamento negativo e da una sostanziale ribasso per quanto riguarda alcune materie prime, prodotti petroliferi e quant'altro, hanno accresciuto la propria aggressività nei confronti dei consumatori, quindi offerte maggiori, si è cercato comunque di andare incontro alle esigenze dei consumatori, quindi non è un Natale completamente nero, un Natale in chiaro scuro con qualche elemento di positività, ma all'interno comunque di un contesto che è un contesto molto difficile. E sempre in tema di consumi, oggi, mentre il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli ha chiesto un incontro urgente tra governo e parti sociali per ricostruire la fiducia, oltre che sul versante degli ammortizzatori sociali e degli investimenti per il sostegno alla domanda interna, dicevo, sempre in tema di consumi, a Roma la tradizione dei doni di Natale sembra resistere alla crisi. Abbiamo fatto oggi una piccola panoramica delle città italiane. Ebbene, il presidente della Confcommercio di Roma, Cesare Panbianchi, al microfono della nostra Chiara Di Michele, ha detto che tutto sommato, rispetto soprattutto alle attese, lo shopping a dicembre sta andando bene. Lo shopping a dicembre sta andando bene, ringraziamo veramente tutti quelli che stanno partecipando a questa iniziativa, stanno partecipando a questo sacrificare ognuno un pezzetto. Significa che dal ponte dell'Immacolata i consumi hanno ripreso bene, Roma e l'Italia in genere, perché comunque anche i dati nazionali sono abbastanza buoni, e sta rispettando quelle che sono le festività, le tradizioni. Certamente non è il momento di fare profitti, ma questo lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti la campagna sconti, la campagna promozioni, le campagne sotto costo. In questo momento bisogna mantenere il livello dei consumi, questo è l'obiettivo di questo momento, per i profitti ci sarà tempo. Dopo l'euforia delle feste, secondo lei cosa succederà? Il problema è quello, dopo l'euforia delle feste bisogna vedere che cosa si potrà fare e che cosa verrà effettivamente fatto per sostenere soprattutto i livelli occupazionali. Noi abbiamo bisogno, una volta dicevamo, di riportare i denari in tasca agli italiani, oggi diciamo abbiamo necessità che i tanti stipendi che vengono corrisposti in una città come Roma continuino ad essere corrisposti, che gli ammortizzatori sociali funzionino, che il tutto continui a girare, seppur al ritmo ridotto, ma continui a girare. Solo in questa maniera non è che supereremo la crisi, cercheremo di mantenere vive le nostre aziende. E sempre a margine della conferenza stampa di oggi tra Confcommercio e Acer, Eugenio Battelli, che è presidente dell'Associazione dei costruttori di Roma e Provincia, e qui ci spostiamo quindi dal mondo del commercio al mondo delle costruzioni, ma insomma ha registrato, e torniamo su un tema che affrontiamo da settimane, una sempre maggiore difficoltà nell'accesso al credito per le imprese del settore delle costruzioni, questo nonostante le rassicurazioni che arrivano dal mondo delle banche, dell'associazione delle banche, dall'ABI. Sentiamo Battelli. Purtroppo si riscontra un atteggiamento abbastanza restrittivo del sistema bancario nei confronti del sistema impresa in genere, particolarmente per quello dell'edilizia, forse perché ricorda un attimo gli noti avvenimenti americani. In sostanza, però, da un'indagine fatta rispetto ai nostri associati è diventato più difficile il credito, hanno aumentato i tassi di interesse, forse non troppo nemmeno giustificati, e c'è una difficoltà anche a sostenere il sistema famiglia, che conseguentemente trova difficoltà poi ad acquisire la casa o quello che è più utile. Chiediamo che le banche facciano il ruolo economico per cui sono demandate, quindi validano e finanziano le operazioni che sono corrette, ma abbiano questo ruolo di finanziatori del sistema economico, non si chiudano nei loro problemi. E in generale ci auspichiamo che tutte le amministrazioni, i locali e non, a partire dal governo, si rendano conto della difficoltà del sistema economico e intervengono con le richieste che stiamo facendo, maggiori investimenti nel settore delle opere pubbliche. Noi dal punto di vista privato faremo la parte nostra. E va bene, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, almeno per la vigilia, per il Natale, pensiamo ad altro, tanto nulla potrà cambiare nei prossimi giorni. Un ringraziamento e chiaramente un augurio di buon Natale a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani, a Valeria Bernardi in regia e a tutti voi in ascolto da parte di Sebastiano Berisoni. Ci risentiamo dopo Natale, anche se domani una puntata speciale di Focus Economia sarà in onda dalle 17 alle 18. Chiedo al professor Garibaldi di restare con noi, perché dopo dovremo avere anche, se conferma, il vicepresidente del Confindustria Bombassei. Però chiaramente con quello che è successo in Emilia speriamo che le notizie restino uguali.